Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Ondivago sta chiudendo per ferie. Ferie che dureranno qualche mese, prima di ricominciare risalendo la corrente radiofonica del nuovo anno. Per questa puntata ho pensato ad una sequenza sonora di mie poesie, alcune di queste inedite. Il tutto intrecciato a vibrazioni quotidiane, forse rumori, o meglio ancora sentori uditivi. Con l'inizio dell'estate le serate italiane sono colorate da un puntinismo di milioni di gelati. Uno di questi, frutto di una accurata scelta al limite del ridicolo, è il mio. Ad Ondivago, la stagione dei gelati, di Max Ponte. ondivago.com. Nelle serie numeriche, nei decoder digitali, nelle antenne paraboliche e nella free press, nei cantieri della metro, nei passi dei pendolari, nelle obliteratrici stanche, nei cimiteri comunali, nei caffè ristretti, nei passi accelerati, nelle pompe di benzina rincarate, nelle trombe delle scale condominiali, nei polpastrelli bruciati di un pusher, nella vetrina delle camicie africane, in tutto questo, in tutto quello, in tutt'altro, in tutto quanto, in tutto quatto, mi muovo, mi stiro, mi giro, mi rimiro, come un emiro, come un fakiro, mi raggiro, e dispendo me stesso, come se fosse un altro e come se fosse peltro, mi batto e non sento il suono, non c'è rinculo, non c'è ritorno, amabilmente mi fermo davanti a un avverbio e mi affido al primato dell'occhio leonardesco, l'occhio del quale la bellezza dell'universo, specchiata dai contemplanti, è di tanta eccellenza che solo con gli occhiali da sole traggo sollievo, che il rilievo delle cose spesso diventa troppo rilevante, fino a farsi tagliente, come se fosse peltro, come se fosse il veltro. Sono i calendari, sono i tempi, sono le tabelle su tele informali, a dettare i battiti, a far sbellicare i tintometri. Abilità esistenziali riproducibili, quindi non fondate scientificamente. Quando Popper viveva in New Zealand, insegnava ai cannibali teorie sulla democrazia, a mangiare tutti senza discriminazioni. Sbrocco per te. Sbrocco per te, barocco, balocco, sbrocco per te, balocco, allocco, fiocco, battacchio, sbrocco per te e mi arrocco, mi abbacchio, mi arrischio, guardo il tuo collo e faccio sboom. Sbrocco per te, di brocchi broccati d'oriente, ti ascolto, dro gatto, davanti al solco liceale del tuo seno coseno, un mezzo radice di 5, sbrocco per 3. E mi fotto, mi sfotto, schiaffeggio lo specchio e sbrocco per te, barocco, balocco, sbrocco. Dimmi qualcosa di suadente. Mellifluo, mille fiori, ipocrita, ipotenusa, pirimpi pettannusa. Dimmi qualcosa di sdolcinato, tipo... Penso a te, cucciolo, in ogni attimo. La tua voce mi fa sognare. Fuggiamo su un pedalò sotto il tramonto dell'Occidente. Dimmi qualcosa da pacco, paccottiglia, qualcosa tarocco, baldracco, da lecca lecca leccato, affettato, rosa shocking cromato, come l'auto in cui morì Buscaglione, dimmi qualcosa, in crine, alla fine. State ascoltando Ondivago con La stagione dei gelati, di Max Ponte. ondivago.com. Non so al mio posto, non so al mio posto, non so e faccio la posta, impasto, pisto, pesto, non so al mio posto, al tatto, titillo, tallo, tatu, tutù, tergo, argo, in vista, vesto, vidimo, non so al mio posto, il posto è postico, post-it, posterizzo, posto, osteggio, pasteggio, pestello, birillo, non so al mio posto, a tav o letta, pesto, accelero, fremo, tremo, cremo, in veste di viso, investo, non so al mio posto, e il pensiero si inietta, ignis, fuoco, fuocherello, para bellum, ballo. Il collirio delle nuvole. Troppe bambole da pettinare, gocce dal cielo, acide gocce oculari. E il collirio delle nuvole, che mi instilla, ora anche spremuti, tutti quei segmenti che scrivono il mio divorzio dalle cose. Il dribbling degli spigoli, la gommatura dell'asperità. Troppe bambole da pettinare, gocce dal cielo, acide gocce oculari, spremono cumulonembi, liquidano cupe siccità. Ora sto camminando lungo Corso Vittorio. Sono un sommelier di nuvole, un instillato di nuvolosità. Non ti bacerò. Visto che avrai firmato un contratto capestro, non ti bacerò. Avvicinerò le labbra a te come un asintoto. Poi sarà il caso. Una scossa terrestre, un colpo di vento, un venditore pakistano, un provvido starnuto, un cedimento stradale, un vuoto d'aria. Il rincaro del petrolio, il Mibtel, il Nasdaq, il Falstaff, lo squillo di un cellulare, un camion di letame, un tubo avvolgibile, un messo comunale, il 730, il 740, il 115, la 012. O forse sarà la tua carenza di vitamine, di crinoline, di burro cacao, di limonao, di porcellane, di porco cane, di cataclismi e di neologismi, di glassa, di glossa. Visto che avrai firmato un contratto capestro, non ti bacerò. Avvicinerò le labbra a te come un asintoto e poi sarà il caso, una scossa terrestre, un colpo di vento. Come un ladro di conchiglie. Come un ladro di conchiglie nella notte di impianti balneari, far slalom ad occhi chiusi tra gli ombrelloni assonnati. Come un ladro di conchiglie nella notte di impianti balneari, far slalom ad occhi chiusi tra gli ombrelloni assonnati. La noia di annoiarmi anno per anno annovero tessere annonarie per evitare pensieri guasti, pensieri stranieri, meglio pensieri guastatori che pensieri insanatori. La notte, la noia di annoiarmi, raccolta differenziata dei libri che fanno piangere assai. La noia è un vocabolo da rifiutare, cagnare, un evidente errore lessicale, un errore di battitura, una bittritura, un refuso strafuso. La noia di annoiarmi. Anno per anno annovero tessere visionarie per provocare pensieri iconoclassi, pensieri panieri. Entro negli atomi e manometto gli scacchi, studio sistemi, per deviare gli assi. Scassami di baci che languono all'inguine, che lattono latenti, scassami di baci che sismano di baci che sismano le ossa, scassami di baci che fendano aulenti, scassami di baci che allagano al limite, scassami di baci che allettano l'ittica, scassami di baci che alleviano i lividi, scassami di braci altrimenti. Avete ascoltato La stagione dei gelati di Max Ponte. La sequenza sonora comprende alcune poesie che saranno presenti nella mia prossima raccolta. Non mi resta che salutarvi, Ondivago è giunto all'ultima puntata di quest'anno. Grazie per l'ascolto da parte mia, di Anna Raffaella Farao e Alessandro Gianotti, che hanno lavorato con me a questo progetto con grande pazienza e professionalità. Anna Raffaella da Parigi ha confezionato una enciclopedica a rubrica francese. E Alessandro dal suo studio ha curato con attenzione i suoni del nostro programma. Grazie ad un lavoro d'equipe, Ondivago si è fatto spazio come un prodotto radiofonico innovativo, in grado di fare cultura in modo diverso. In questa seconda serie sono state realizzate puntate differenti fra loro, per non annoiarvi mai, che hanno spaziato dall'intervista al documentario al radiodramma. Un Dio che è stato trasmesso da Radio Prima, radio belga di Liegi che trasmette in francese e italiano per gli italiani all'estero. Un Dio che è stato emesso da Radio Valdarno, web radio comunitaria dell'Arci, e un Dio che è stato suonato da Quanta Radio, web radio di Roma. E infine sottolineiamo che un divago è entrato con una puntata del 2011 fra le produzioni del cantiere di Radio 3 Rai. Attualmente la puntata è in questione, che ritrovate nella colonna sinistra del sito, è fra i migliori documentari consigliati dalla radio di Via Asiago. Vi invitiamo a riascoltare le nostre puntate, che possono essere liberamente scaricate e diffuse. Le ritrovate tutte, come al solito, sul sito ondivago.com. Le nostre trasmissioni riprenderanno col nuovo anno. Un acquatico abbraccio. On divago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info ondivago.blogspot.com. Email ondivagoradio@gmail.com.